Buongiorno, dottor Pardo, dottor Cinta, grazie di esistere. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Molto bene. Alessandro Marco Turi, il nostro autore, Federico Bini in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Molto bene. A Roma sei sempre a vedere il tennis? Sì, sì, sono qui, sono qui. Come va? Beh, ha perso Federer. Ha perso Federer. Prima notizia, ha perso Federer la prima notizia della giornata, adesso c'è la Williams, poi gioca Nadal, insomma. Giornata, poi c'è Djokovic. Bene. Molto poi, bene. No, no, bene, stavo salutando una persona, la mia ex collega, cioè collega ancora di Sky, Barbara Grassi. E quindi, insomma, diciamo, la giornata è cominciata col botto, ecco. Sì, l'eliminazione di Sua Maestà Roger Federer contro un carneade austriaco, Thiem. Comunque, questa serie numero 13, sì. Sì. Nothing compare with Federer. Comunque... No, comunque, Roma abbastanza al centro del mondo, a parte che questo torneo, questi internazionali d'Italia stanno facendo registrare dei record assoluti, un torneo che qualche anno fa sembrava sull'orlo della sparizione dei grandi circuiti, mentre adesso è addirittura, leggevo prima, un modello da imitare, con il Foro Italico sempre esaurito, con grandi nomi che vogliono partecipare, quindi è tornato ad essere un grande torneo questo degli internazionali d'Italia. A Roma è partita anche la corsa, la campagna elettorale all'Olimpiadi 2024, no Pierluigi? Sì, sì, la seguiremo insomma nei prossimi giorni con una serie di testimonianze, ma sì, direi di sì. Mi sembra insomma una grande opportunità, francamente, anche se poi la storia dello sport è piena di esempi che vanno nelle due direzioni, per esempio il clamoroso di Barcellona 92, che rappresentò l'inizio, un vero e proprio Big Bang dello sport e della società spagnola, che da quel momento in poi è decollata dal punto di vista economico, dal punto di vista immobiliare, una serie di cose assolutamente virtuose. Poi c'è anche l'esempio di Atene, che è una specie uguale e contrario di una Olimpiade che si è fatto. Sì. Esatto. Quindi io ti dico che per cultura, per mentalità, per attitudine sono sempre portato a fare le cose. Chiaramente poi bisogna che i magistrati possano vigilare, insomma, tutta una serie di note per evitare che ci siano sprechi o situazioni poco chiare. Questo è ovvio, tutte le volte che si fa qualcosa, questo è importantissimo. Però è molto triste, secondo me, un paese che per paura o per incapacità di riuscire a gestire delle opere decide di non farle, certo. Questo sarebbe veramente una sconfitta. E credo che l'esempio dell'anno scorso dell'Expo comunque rimanga un esempio positivo, perché poi sicuramente non sarà stato perfetto, sicuramente ci sarà stato anche lì in mezzo qualcosa che non ha funzionato, però nel complesso la macchina ha funzionato bene. Mi è sembrato buono, cioè, poi magari mi sbaglio io, non lo so. No, non ti sbagli. Siccome mi piace l'idea di vivere in un grande paese, aderisco, cioè, poco che conta, cioè zero, però aderisco idealmente all'idea, mi sembra un'opportunità, ecco. Certamente. Allora, per quanto riguarda il programma di oggi, tra poco sarà con noi Pierpaolo Marino, faremo molte chiacchiere anche su questa sua idea, come è abbastanza bizzarra, lanciata in un'intervista a Tutto Sport, quella l'idea di affidare la panchina della nazionale a Marotta, il direttore generale della Juventus. Però a proposito di Juventus, poi ne parliamo direttamente con lui. Poi apriremo anche con un grande procuratore il valzer delle panchine, perché tutti stanno ballando intorno alle panchine europee. Avremo nella seconda ora un grande ospite come Marco Bellinelli e poi parleremo di ciclismo. Questo il piano partita. A proposito di Juventus, sono stati i giorni dei rinnovi dei due grandi vecchi, Barzagli e Buffon. Sentiamo Barzagli. Sono veramente fiero di me stesso oggi ed emozionato, perché era quello che desideravo, prima di tutto dimostrare di poter giocare in un club prestigioso come la Juve. Quindi quando sono arrivato ero veramente con la massima concentrazione, ma anche con quel timore, insomma, di dover affrontare veramente uno stadio e dei tifosi così, così importanti. Quindi adesso che è passato 5 anni, dove abbiamo fatto tantissime vittorie. Sono contentissimo di questo rinnovo di 2 anni. Dunque, rinnovo di 2 anni, Pierluigi. La Juventus riparte dai suoi grandi vecchi, mentre si sta ancora discutendo del contratto di Totti, ma poi arriverà. Vecchi molto di moda, anziani giocatori molto di moda, riparte dalle due colonne della sua difesa, Buffon e Barzagli. Sì, ed è tutto molto bello, come dice il maestro Pizzul, nel senso che sono due rinnovi che certificano ancora una volta, in qualche modo gratificano, fanno dare award a questi due giocatori che hanno fatto così tanto, hanno contribuito così tanto alla stagione della Juve. Barzagli è il difensore più regolare dei tre, non me ne vogliono Bonucci e Chiellini, che hanno altre caratteristiche. L'elemento stabilizzatore di quella difesa. Insomma, Barzagli è il difensore più difensore dei tre. Poi Bonucci certamente ha dei piedi ancora più educati ed è un giocatore che qualche volta, quando sbaglia per eccesso di confidenza, ma sicuramente ha delle capacità di impostazione superiori. Chiellini è un difensore che quest'anno ha avuto tanti problemi fisici, dall'enorme spirito inglese, proprio come anche come fisico, come mentalità, come attitudine, sembra veramente un giocatore da Premier League e da calcio inglese anche un po' antico, quindi è un giocatore con delle doti importantissime dal punto di vista protagonistico. Però ecco, se tu mi chiedi dei tre chi è il difensore più difensore, non è Barzagli. Sono d'accordo sul concetto di stabilizzatore. Su Buffon abbiamo esaurito da tempo gli aggettivi, se non che al termine di questo contratto si avvicinerà all'età Zoff, cioè più o meno siamo lì. Allora, ci fermiamo per il traffico. 800 24 0024 è il numero verde, torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Pierpaolo Marino, buongiorno. Come stai, direttore? Buongiorno a voi. Buongiorno. Pardo collegato naturalmente, ci sente e interverrà come al solito. Penso sia una provocazione, no, quella che leggo in questa tua intervista di oggi a proposito della panchina della nazionale vacante tuttora, c'è Conte, ma come sappiamo l'avventura è finita e tu proponi una soluzione che mi sembra estrema, cioè quella di Beppe Marotta, CT. No, non è una soluzione estrema, la spiego meglio. In pratica, secondo me si fa un grande errore a pensare che il tecnico della nazionale sia un vero allenatore, perché in realtà l'allenatore tecnico, il selezionatore, per meglio dire, della nazionale ha nel suo compito principale allestire la squadra, perché poi i giocatori arrivano allenati da altri e quindi un po' questi erano i concetti di Italo Allodi, no? Cioè lui faceva il selezionatore in realtà della nazionale e poi aveva Fabbri come allenatore, cioè, sì. E in realtà il modello oggi forse è più proponibile. Allodi precorreva i tempi, oggi è più proponibile, visto che le società concedono malvolentieri i giocatori alle nazionali, quindi il compito principale assume sempre più importanza a saper scegliere dei blocchi, dei reparti di squadra, che sono compiti che svolgono i direttori tecnico-sportivi durante le campagne acquisti, quindi io non è una provocazione. Marotta col suo staff di scouting potrebbe essere riportato importato e esportato dalla Juve, importato dalla nazionale, sì, con un allenatore di campo che non c'è bisogno che venga lì ad insegnare calcio, perché tanto il calcio glielo insegnano gli allenatori di club, i giocatori. Sì, si potrebbe anche prendere un allenatore tra virgolette normale e affiancargli un responsabile che sia dentro le cose del calcio come Marotta. Sì, anche un allenatore cresciuto nelle nazionali stesse giovanili, sul modello dei Berzotte, dei Vicini, perché poi in realtà Berzotte era un selezionatore, perché famoso era allenatore federale, era Maldini poi federale, cioè, diciamo la verità, l'allenatore era Cesare Maldini, Berzotte era il padre di famiglia, il selezionatore. Sì, come la vedi, Pardo? No, beh, il concetto non fa una piega. Poi credo che comunque un allenatore nell'adrenalina, cioè secondo me il concetto è giusto. Il fatto che il selezionatore, che il commissario nazionale sia soprattutto un selezionatore, che quindi anche un uomo di calcio che però è abituato a scegliere appunto dei blocchi possa essere funzionale, su questo non ci sono dubbi. Poi io credo che nell'adrenalina della partita, nella preparazione tattica della partita, appunto ci sia bisogno di quell'allenatore di campo di cui parlava anche Pierpaolo, che comunque ci sarebbe, quindi non è un discorso poi così diverso da quella che è la realtà. Credo che poi questo fosse un modo per fare un complimento in diretta a quello che la Juve ha saputo creare in questi anni, certo. Perché non ci sono dubbi che la chiarezza di idee che la Juve ha avuto negli ultimi anni, anche quel pizzico di fortuna l'aver poi trovato, perché poi nella vita ci vuole anche tu puoi prendere Barzagli, sicuramente è una grande è un grande affare già in partenza, perché lo paghi 300.000 euro, però poi non puoi sapere, secondo me, che nei 5 anni successivi farà quello che ha fatto, puoi, certo, magari immaginare che nei primi 2 faccia quello che ha fatto, quindi poi c'è anche un elemento complessivo, secondo me, di riuscita del lavoro, però che sa che Marotta stia facendo benissimo, non ci sono dubbi, anche Pierpaolo a questo punto può essere utile per la nazionale, eh? Anche Marino, no? No, assolutamente. Perché no? Perché Marotta sì e Marino no? Perché, puoi fare la perché io l'ultimo scudetto l'ho vinto nell'87, quindi sono arrugginito da quel punto di vista. No, scherzo. No, ma la mia, cioè, io credo veramente in questo concetto ora, che cioè il compito principale sia il selezionatore. Io quando sento di parlare di allenatori concettuali, come definisco i Ventura, i Montella, cioè per la nazionale, rabbrividisco, perché dico, ma come, qui ci vuole gente pragmatica, cioè la nazionale la si fa con le scelte. Sì, sul nome di Montella penso che siamo tutti d'accordo, nel senso che non sembra, per caratteristiche, la figura ideale per la nazionale. Ma sì, ma tutti quelli che hanno bisogno di lavorare giorno per giorno per inculcare concetti, schemi, non sono adatti alla nazionale, stanno bene e guadagnano bene nei club, non c'è bisogno di portarli in nazionale. Io in nazionale porterei dei pragmatici, cioè ad esempio De Biasi è una figura che risponde di più alle caratteristiche, perché io De Biasi quando vado a vedere i giocatori, sì, in giro lo trovavo su tutti i campi a guardare i giocatori, era uno informatissimo quando io scambiavo qualche idea, addirittura quando allenava col Brescia e gli chiedevo, certo, dei pareri su dei giocatori in giro, quindi era aggiornatissimo, e quindi questo è il compito principale di un allenatore della nazionale, girare e selezionare bene, avere l'intelligenza e l'intuito di scegliere blocchi di 3-4 giocatori nella squadra. De Biasi potrebbe davvero essere il profilo giusto. Bellissima suggestione, al di là dell'amicizia, ma De Biasi è veramente, è uno che se devo pensare al concetto di cui parlava Pierpaolo, cioè alla specificità del lavoro delle nazionali, è forse sì, è il Ranieri delle nazionali, sì, cioè, sì. L'impresa di Ranieri, se vogliamo, è ancora più clamorosa, però voglio dire, siamo in quell'ordine di grandezza lì, perché portare l'Albania all'europeo giocando il calcio che ha giocato, con l'autorevolezza che ha mostrato, è veramente l'impresa, e quindi sicuramente è un pragmatico, sono d'accordo. Ma Montella, al di là del fatto che adesso non attraversa un periodo straordinario, perché ha avuto una stagione complessa, però anche lì vedi, ha avuto una stagione complessa perché probabilmente non si è riuscita ad adattare così tanto, certo, al tipo di materiale che aveva, certo, quando ha avuto, certo, la possibilità. Quindi ha maggior ragione, invece, no, per Luigi. No, quando ha avuto la possibilità di costruire un ciclo, l'ha fatto molto bene Montella, non sì, è che non sia bravo, certo, ma ha avuto scegliendosi bisogno, giocatore, lavorando, esatto, sul campo tutti i giorni, esatto, cosa che il commissario tecnico non può fare. Passando alle cose del campionato, invece, Pierpaolo, cosa manca? Banale, ma questo è il grande tema. Cosa manca a Roma e Napoli per rincorrere la Juventus? E poi hai sentito Sacchi che ha detto Insigne deve lasciare Napoli per crescere, perché la sua crescita lì rischia di arrestarsi. Due belle domande. Cosa manca a Roma e Napoli? Secondo me alla Roma è mancato Spalletti dall'inizio, perché la squadra, e voi sapete cosa ho detto di Garcia, perché nel vostro, sì, certo, programma credo che mi avete dato lo spazio di poter spiegare più volte il concetto che avevo, e ditemi che il tempo è stato galantuomo, perché ho avuto ragione su quello, cioè Spalletti ha completamente forse cominciando con Spalletti la Roma poteva essere già ai livelli della Juventus. Il Napoli gli manca una rosa adeguata, cioè la competitività nei vari ruoli, nei 10 ruoli e forse anche negli 11, perché Reina comincia ad avere qualche scricchiolio dal punto di vista di campo, non nello spogliatoio dove è un grande leader. E poi queste sono le cose che mancano. Cioè, maggiore profondità per il Napoli, mentre secondo te dal punto di vista dell'organico la Roma va bene così com'è? Secondo me la Roma ogni estate bisogna fare qualcosa, anche perché qualcuno poi dopo alla fine va via in questo mercato globale, non riesce a trattenere tutti i grandi giocatori. La Roma mi pare che a livello di rosa e a livello di caratura internazionale dei giocatori stia abbastanza bene. Il Napoli ne ha 12-13 per quelli che ha utilizzato Sarri, perché dobbiamo partire da un concetto che se Sarri non ha ritenuto gli altri idonei a livello di quel Napoli che c'era quest'anno, vuol dire che quelli lì vanno sostituiti, perché ora che il Napoli ha la Champions League, se vuole puntare a una stagione decorosa deve assolutamente allungare la rosa. E poi per quanto riguarda invece Sacchi, che io stimo tantissimo, però questa non l'ho capita sinceramente. O Sacchi sa delle cose che noi non sappiamo sulla situazione contestuale di Insigne a Napoli, oppure, perché io credo che questo sia stato un anno di progressione di Insigne. Ma sembra così anche a me, no? Ne abbiamo parlato enorme. a lungo, per lunghi tratti è stato secondo me il miglior giocatore del campionato, italiano del campionato. Sì, miglior italiano. Sì, sì. Posso chiedere cosa su Insigne? Sono d'accordissimo, assolutamente, cresciuto altissimo, poi è ovvio che qualsiasi giocatore, soprattutto i giocatori che sono profondamente connotati con una realtà, si può essere la suggestione di dire che andando fuori possono completarsi, perché possono completarsi come persone prima ancora che come calciatori. Quindi questo è un discorso che si è fatto per esempio spessissimo per Poppi o per De Rossi alla Roma. Posso chiedere, a proposito di Roma, fra Pjanic e Nainggolan, dovendo fare un sacrificio, ovviamente retribuito tantissimo, cioè dovesse arrivare un'offerta folle per tutti e due, secondo lui qual è quello imprescindibile, chi invece eventualmente potrebbe anche pensare di andare via? Assolutamente imprescindibili entrambi, però Nainggolan lo è di più secondo me, perché è un giocatore che ha tutte le fasi, ha tutte le caratteristiche, è un giocatore globale da calcio moderno. E anche se Pjanic, per la qualità delle giocate, per la fantasia, per il piedino d'oro che ha, è un giocatore che esteticamente è più bello, però io credo che un Nainggolan sono quei giocatori alla Vidal che è difficile da andare poi a reperire in giro, cioè sono giocatori che poi ti lasciano un buco che non finisce più, insomma. Quindi tra i due più si deve fare un sacrificio, sacrificabile Pjanic, tenendo conto però che insomma ci auguriamo tutti che Strootman possa rientrare e giocare finalmente a pallone. Un'ultima cosa per Paolo, lo venderesti Higuain? No, secco? Io volevo dire, completando il discorso di Insigne, che io ho tesserato al Napoli, quindi lo conosco veramente da quando era ragazzino, quando frequentava l'asilo. Io credo che Insigne, al contrario di quello che dice Sacchi, proprio conoscendolo per averlo avuto 5 anni nella crescita, sia uno che possa avere problemi andando fuori da Napoli, al contrario, insomma, perché a Napoli sta proprio nel suo ambiente naturale, cioè lo vedo un giocatore che è il paladino del proprio popolo e capisce la mentalità e sa cosa vogliono i napoletani, quindi vedo proprio una cosa inversa. Ecco, poi ho completato questo tempo. Magari. Un'ultima cosa, venderesti Higuain? Beh, all'età che ha e con l'ingaggio che dovresti dargli per rinnovare, perché non dimentichiamoci che ora al 1 luglio Higuain ha un contratto che comincia a consumare il penultimo anno, quindi è come fosse in prestito biennale al Napoli se non rinnova. E tu non puoi permetterti, di fronte magari a 70-80 milioni, se non rinnovi, perché Higuain magari non vuole rinnovare oppure perché non trovi l'accordo economico, non puoi permetterti di consumare 80 milioni che sarebbero nel cassetto in 2 anni per poi portarlo a zero. Quindi io credo che ci possa stare di dover vendere Higuain. Poi se non lo vendi, per l'età che ha, se non lo vendi, probabilmente quando ha fatto una stagione come questa adesso quotazione al top, quindi se c'è un momento, se mai dovesse esserci, perché lui va nei 29 anni momento, ora, certo, quindi se mai dovesse esserci un momento è questo. Grazie, sì, Pierpaolo. è così. Grazie direttore, grazie davvero per Paolo Marino. Ci fermiamo per la borsa, c'è già Tommaso da Treviso, 800 24 00 24, vostro numero verde, contatti, sms, whatsapp 349 238 6666. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Tutti convocati. Mi piace vincere sempre. Io sono qua per provare a vincere ogni partita. E se non mi piace quello che vedo, mi arrabbio. E se non mi piace quello che vedo, mi arrabbio. Sono carico al 100% per dare tutto in campo e vincere in Europa League, il campionato e anche in la Coppa. Muchas gracias a todos por la bienvenida. Esta es la parte siempre más difícil, cuando tienes que hablar y no sabes qué decir. Sobre todo por el día, es un día emocionante volver aquí, a mi casa. Creo que un poco lo que ha dicho el presidente, yo trabajo, dedicación, tengo un buen equipo de trabajo. Espero que las cosas vayan bien, espero que las cosas vayan bien. Hoy hemos tomado una difícil decisión, especialmente para mí, como es resolver el contrato de Rafa Benítez como entrenador del primer equipo. Sempre un allenatore vuole di più, sempre se hai vinto due trofei vuole vincere anche tre, è così, no? Siamo tutti così. Ai ai ai, Rafa Benitez, due fallimenti in una sola stagione, quello con Real Madrid e ora la retrocessione col Newcastle, ma Benitez curiosamente è un allenatore che non fa grande fatica a trovare una panchina, che non fa grande fatica a trovare mercato ed estimatori. Vedremo se sarà così anche dopo Newcastle. Tommaso, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo dire la mia un attimo sul discorso selezionatore, allenatore della nazionale. Sono d'accordo parzialmente con quello che ha detto prima Marino, perché secondo me l'allenatore della nazionale deve essere una persona in grado di gestire i momenti difficili della partita, che sono quelli che decidono le sorti della squadra alla fine. Sì. Quindi ok, saper selezionare, ma quello è un lavoro che si fa durante la preparazione. Però poi, nel momento vero della gara, serve qualcuno che abbia i nervi saldi. Su questo penso siamo tutti d'accordo, cioè serve un allenatore vero, tanto che io sarei per una figura da team manager, da... si potrebbe portare Marotta in nazionale facendogli fare il ruolo che fa nella Juventus, quindi tenere rapporti con i club, aiutare il commissario tecnico da molti punti di vista, ma serve un allenatore per guidare comunque una squadra di calcio. Non ci si inventa allenatori, anche se si capisce molto di pallone come Marotta. Claudio Pasqualin, buongiorno, principe del foro calcistico, buongiorno. Buongiorno e grazie per questa bella definizione. Uh-huh. Insomma, è il nostro pallone che ha tanti fori, il foro è nel pallone, direi, al di là dei principi relativi. Una volta c'era una figura come quella che stavate delineando di Marotta, no? Sì. Era vestita da, qualcuno se lo ricorderà, un italo-inglese molto eclettico, molto brillante, che si chiamava Gigi Peronace. Sì. E che era una sorta di alter ego di Berzot, per un periodo lo è stato, uh-huh, credo che fosse Berzot l'allenatore ufficiale. Ma Gigi Peronace faceva quello che potrebbe fare un Marotta, certo, nel contesto della federazione, facendo da team manager. Esatto, un po' di più che team manager, proprio un ruolo simile a quello del direttore sportivo. Sì. Pardo, cominci tu con le domande al professor Pasqualin. Sì. No, innanzitutto volevo dire che poi voi mi tenete sempre il microfono staccato, e che sono quattro i fallimenti di Benitez, sono due, perché oltre ai due fallimenti tecnici suoi, Real Madrid e Newcastle, c'è anche il fatto che il Napoli senza di lui è andato meglio e che il Real senza di lui è andato meglio, quindi questo mi sento di dirlo. No, professor Pasqualini, chiedo che peccato sarà, visto che ormai già siamo proiettati, no? Siamo già ormai in clima di vacanze, i soldi sono tornati, l'anno scorso sembrava che fossero tornati, insomma se guardiamo le cifre spese dai 4-5 club principali del nostro calcio. Se sono tornati, io non li ho visti, caro Pardo, non lo so, non credo proprio che siano tornati. Anche qualcuno li ho visto, forse perché ho avuto l'avventura di sistemare Giovincola dove ci sono davvero, cioè in un campionato ricco, qual è quello della MLS, ma credo che sia l'unico al mondo. E quindi, ma però nel nostro mercato, diciamo, nazionale e continentale, soldi non ce ne sono. Oddio, nel resto del continente, in qualche campionato come la League, per esempio, la Premier League, intendo quello inglese, sì. Però da noi bambole non c'è una lira, insomma, continua a essere questo il ritornello. E quindi sarà un mercato all'insegna, ancora una volta, dell'italica fantasia e bla bla bla e bla bla bla. Si faranno prestiti, scambi, non verranno mai esercitati. I diritti di riscatto prefissati verranno discussi e trattati strenuamente, tranne per qualche giocatore che si è meritato davvero il riscatto. Mi viene in mente El Shaarawy, per esempio, per il quale la Roma pagherà senza battere il ciglio i 13 milioni previsti. Ecco, ma per il resto il prossimo mercato, appunto, sarà simile agli altri, insomma, agli ultimi. C'è proprio Marotta che dice che ormai la Serie A è diventata un territorio di transito per i grandi, per i big, per i top players. È una constatazione amara da condividere assolutamente, assieme all'altro rilievo che riguarda l'inerzia federale, chiamiamola così, nel senso che in federazione si constata che andiamo sempre più giù, ce la giochiamo con il Portogallo per essere il quinto campionato continentale più attrattivo, non si sa se il quinto sono loro o siamo noi, e non si fa niente, non si fa niente per cambiare le regole. Si parla che sì, forse si faranno le seconde squadre, ma non è detto, e benché vada tra un paio d'anni, e non si, cioè, l'esterofilia ci assedia, ci devasta. Non si fa niente per imporre un certo numero di calciatori italiani in campo, e quindi sì, ha ragione Marotta, ed è anche stato benevolo, insomma, ecco. Dicevi, Pardo? Siamo peggio della Francia, siamo quinto paese? Sì, per me sì, a questo punto sì, cioè, la gente è un pochino disamorata, appunto l'esterofilia secondo me è uno dei motivi per i quali la gente si disamora l'episodio di Inter e Udinese che scendono in campo senza un italiano, e quelli che un pochino ti toccano, perché tu da tifoso affidi al concetto di campanile quello della tutela della tua comunità, no? E lo fai con un certo rammarico, non sei così felice di affidarlo a un giocatore che arriva da un altro continente, no? I tifosi dell'Udinese vorrebbero vedere qualche giocatore, non dico di Udine, ma comunque. Ma secondo me, guarda Claudio, io continuo a pensare che i tifosi dell'Udinese vogliono vedere qualche giocatore forte, che poi sì, venga dal Cile o venga da un'altra parte. Questo al massimo livello professionistico poco importa, poi le regole, è chiaro che non possiamo porre delle restrizioni alla libera circolazione dei giocatori comunitari, perché questo non è possibile per legge. La situazione è più o meno simile anche in Inghilterra, sì, è più o meno simile anche in altri paesi. E tu devi vedertela, no? Con fino all'ultima giornata, per non retrocedere, insomma, ma preferisci farlo con i tuoi, ecco. Cioè, voglio dire che devi vincere, sì, ma preferibilmente, insomma, con qualche giocatore che hai prodotto tu in qualche maniera. Ecco, è il concetto di tifo campanile, anche se adesso il concetto di tifo è dilatato al punto che a Udine saranno in molti a tifare Barcellona piuttosto che Manchester. Questa è la realtà, si è evoluta in questa direzione rispetto ai miei, lo ammetto, un po', come dire, antichi o come dire, retro ragionamenti, ecco. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi parliamo un attimo di allenatori prima di salutarti, Claudio Pasqualini. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Claudio Pasqualin, volevo farti una domanda sugli allenatori, poi pardon, non lo so. Si parla di Oddo che potrebbe andare a Chievo al posto di Maran, si parla di Mazzarri in Inghilterra al Watford, quindi potrebbe trovare casa là. La Lazio ha parlato con Sampaoli. Una domanda può essere: dove va Gasperini, che è un allenatore che io dal Milan in giù prenderei subito? Eh sì, è una domanda corretta, perché in questo valzer, insomma, sarebbe ingiusto in ogni caso che un allenatore come Gasperini restasse fuori dal giro. Una squadra sicuramente per lui ci sarebbe, è singolare questa situazione che debba avere dei problemi, tutto sommato ha fatto un buon campionato e che sia insidiato in qualche maniera da quello Juric che ha avuto, mi pare, per un periodo come secondo, sì, fa effettivamente un po' effetto. Magari qualcosa si è rotto, ma poi Gasperini è comunque uno anche molto bravo nel creare giocatori, nel valorizzare giocatori, chiedere sì, Suso, sì, chiedere Neander. È un bel allenatore italiano che merita una squadra di Serie A. Mazzarri va in Inghilterra? Bisognerebbe chiederlo al mio socio Andrea D'Amico, che in questo momento, come si usa dire, fuori Italia, oppure chiedere a Pardo, che magari interloquisce spesso con Andrea. Glielo chiediamo. Pardo, vai in Inghilterra? Ma credo che abbia delle cose, delle ipotesi aperte. Il Watford credo sia una di queste. Io su Mazzarri, sapete quello che penso, che non è un buon allenatore di altissima percentuale. È mancato secondo me dal punto di vista della comunicazione, soprattutto nell'esperienza all'Inter, e il mio consiglio, glielo do privatamente, quindi glielo do anche pubblicamente, è quello di comunicare di più, e comunicare meglio, perché è passato come il grande sconfitto, il grande trombato dell'esperienza all'Inter, e mi pare che poi comunque anche dopo la sua partenza le cose non siano migliorate a fronte di investimenti abbastanza clamorosi. Quindi il percepito di Mancini, che perché è un buon allenatore secondo me, è comunque migliore rispetto al percepito di Mazzarri, i risultati in realtà sono abbastanza simili. Certo. Mazzarri aveva comunque riportato in Europa l'Inter dopo la stagione in cui non c'era andata, e complessivamente ha una carriera per lui, ha una carriera di alta prestazione. Il dubbio è che la gestione delle pressioni di un grandissimo club lo possa trovare un pochino meno preparato, perché sì, l'esperienza all'Inter ci dice questo, però dal punto di vista del campo secondo me c'è poco da dire su Mazzarri. Certo. Senti, invece, perché Benitez, che tu ricordavi fallito non due volte ma quattro, ha così tanto mercato? Come mai riesce sempre a trovare alla fine qualche estimatore? Lo chiedi a me? Io lo chiedo a tutte e due, a chi ha una risposta a questa domanda? È un personaggio, prego, pardon. No, prego, Pasquali, dopo di lei. Ma no, non sia mai, allora, perché la sua immagine è presente sul mercato, diciamo così, da tanti anni ormai, ha quest'aria da brava persona, a volte magari un po' troppo, come dire, paccioso, no? Non ha quella cazzimma, si dice così, riferito a qualche giocatore soprattutto, no? Non ti fa vedere quel nervosismo, quell'eccitazione che a volte fa anche bene, no? Per tenere sulla corda, per così dire, i ragazzi. E comunque io credo che sì, nonostante i due flop recentissimi, qualcosa troverà, magari dovrà accontentarsi, e ci mancherebbe, di meno che del Real, però qualcosa a livello Newcastle, con il quale lo trova, io credo. Penso anch'io. Beh, lui ha innanzitutto una storia inglese, spagnola, italiana, quindi già, diciamo, tre fronti, anche semplicemente da un punto di vista di relazione, sì, ha già tre mercati aperti, sì, di un certo tipo, di un certo livello. Sicuramente troverà, però è altrettanto vero che nell'ultimo anno e mezzo, gli ultimi due anni, Benitez è andato in grande calo, e probabilmente alcune cose nella sua carriera le ha ottenute anche così sull'inerzia delle cose che ha fatto, certo, molto importanti, soprattutto a Liverpool, prima ancora a Manchester. Sì, sì, ha fatto fruttare, ha fatto fruttare la sua, il suo palmarès. Poi insomma, io la mia idea è che l'esperienza a Napoli deve essere divisa veramente in due parti, perché la prima stagione di Benitez non è stata male. No, la seconda però è stata deludente. È stata molto positiva. La seconda è stata molto deludente, è cominciato malissimo. Mi ricorderò sempre quel viaggio a Liverpool, la settimana di vacanza a Liverpool, le dichiarazioni sulla partita contro il Bilbao. Veramente un allenatore che mi sembrava avesse perso quella, appunto, quella grinta, quel livello minimo, quella cosa sindacale minima di agonismo che serve per, certo, per grandi risultati. C'è il signor Scaragatta, al quale chiedo un signor Scaragatta, non gli chiedo i temi, ti chiedo la Fiorentina dove arriva l'anno prossimo, palla rivedo. La Fiorentina di solito se a quarto e quinto posto si parte sempre, purtroppo arriva quasi sempre quinta, oppure arriva quarto quando in Champions vanno in tre. Quindi il primo dei non eletti. Sul podio olimpico con stando sotto, cioè, chi vince il torneo di Roma? Il torneo di Roma lo vince Djokovic, non sono molto originale. Non è originale, però è simpatico. Il signor Scanagatta, il signor Scanagatta, che ringraziamo, così come ringrazio l'avvocato Pasqualin. Grazie avvocato. Grazie a voi, buona continuazione. Senti, Pierluigi, prima di salutarti rispondiamo ad Antonello da Cesena, dai. Sì, vai. Vai, Antonello. Buongiorno, non Cesena, provincia di Caserta, carino. Mi spiace, ma hanno scritto Cesena. T'hanno scritto T e tu non sapevi che era no, provincia Caserta. No, giuro, c'è scritto Cesena. Non c'è. Provincia di Cesena invece qual è? Ho vissuto anche a Cesena. Dica. Allora, per me Sacchi ha ragione. Cioè, insegna deve andare via. Sì, perché deve andare via, fare un sacrificio, altrimenti come squadra che deve lottare per i vertici, deve fare dei sacrifici. In questo momento Insigne, che è il, io lo chiamo folcloristico, è la pedina da sacrificare. Non Higuain, ma Insigne. Il giovane, si prendono anche dei soldini. E Mertens è una validissima alternativa e poi costruire l'eventuale squadra con Higuain come punto fermo. Grazie. Grazie a lei Antonello, questa è la sua idea. Io Insegna non lo venderei, posso anch'io dire. Non lo venderei, poi tutto dipende ovviamente se Higuain rinnova. Marino l'ha spiegato benissimo, certo. Se Higuain rinnovasse a delle cifre ovviamente alte, ma che comunque secondo me non potranno essere 10 o 12 milioni netti l'anno che alcuni top club gli possono proporre, se Higuain avesse voglia di rinnovare, questo sicuramente potrebbe essere una strada percorribile. Dal punto di vista tecnico ci può stare il ragionamento. Quanto al discorso di Sacchi, io penso che tante volte appunto anche Totti e Rossi hanno ricevuto, diciamo, lo stesso tipo di consiglio, andate fuori, e ci sta perché sicuramente per giocatori che sono così connotati con un certo tipo di ambiente, sì, avere un aspetto diverso può darti qualcosa in più e ti può arricchire. È pure vero il contrario, cioè in tanti abbiamo detto che giustamente che Totti avrebbe dovuto vincere sicuramente di più se fosse andato per esempio a Madrid, questo è vero, però sì, è anche vero che se Totti ha avuto questa continuità di rendimento e questa longevità di carriera, cito l'esempio più classico, è proprio perché probabilmente ha sempre dovuto lavorare in questo tipo di ambiente. Chiaro, quindi sì, ci sono pro e contro in queste situazioni. Io ripeto, Higuain Insigne almeno ancora per una stagione in una grande squadra, qual è il Napoli, me lo terrei. Grazie per Luigi, ci sentiamo domani. Ciao GR. Finisce qua, senza recupero, primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si ricomincia. Convocati. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Ancora Belinelli forzato da tre, segnato da tre, batte forte il cuore dell'Italia, batte ancora più forte quello di Marco Stefano Belinelli, batte ancora più forte quello di Marco Stefano. Belli, ancora buonissimo impatto sulla partita per Marco, che lo scorso anno al primo turno ebbe enormi problemi contro Dallas. Oh mamma mia, cosa ha fatto Marco Belinelli? Bellinelli for three. Mamma mia! When you're at the end of the road. Bellinelli contro Mirotic da tre! Marco! Bellinelli! Uscita di Bellinelli, più forzato di prima! Più dentro di prima! Benvenuti al Marco Bellinelli Show! Marco Belinelli Show, che oggi abbiamo anche su Radio 24, un super big dello sport italiano. Ciao Marco, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, piaciuta la copertina? Beh, bellissimi direi, sono anche abbastanza emozionato, mi ha fatto venire più voglia di prima di finalmente giocare con la maglia dell'Italia, diciamo. Eh sì, intanto sei gasatissimo, mi pare. Esatto, no? Esatto. perché il tuo faccione andrà a comparire su delle lattine molto popolari. Esatto, anche sulle lattine Sprite. Senti, come è stata la prima con i Kings? Guarda, ti dico, sicuramente non è qualcosa di una nata positiva, nel senso che sicuramente non... venendo, diciamo, da una squadra come San Antonio, dal titolo, diciamo, da tante altre belle cose, quest'anno, diciamo, è stato un anno un po' così, perché comunque era una squadra, diciamo, che doveva crescere con diversi giocatori, un allenatore nuovo, insomma, tante cose, diciamo, che purtroppo, diciamo, non sono andate bene, e non eravamo sicuramente un gruppo unito, e questo, diciamo, si è visto alla fine, perché comunque siamo stati una, purtroppo, delle peggiori squadre nella Lega. Però, diciamo, non può essere sempre positivo, quindi purtroppo, certo, ci sono anche questi anni qua, e quindi si deve cercare comunque sempre di migliorare, cercare comunque di fare bene già dal prossimo anno. Sì, una NBA in questo particolare momento storico popolata da alcuni mostri veri, esatto. Carl, LeBron, Durant, sono giocatori pazzeschi, insomma. Già l'altro giorno, quando ha giocato la partita Curry contro Portland dopo l'infortunio che ha avuto al ginocchio, ha fatto 40 punti, 17 punti nell'overtime, che ha fatto, diciamo, un altro record, è qualcosa di imbarazzante. Quindi guarda, ci sono giocatori fortissimi, inutile nasconderlo, e soprattutto, diciamo, Curry è una di queste, diciamo, che sta dominando in questi 2-3 anni. Adesso ti faccio fare un po' l'Obama playoff, sì. Tabellone dei playoff, Cleveland contro vincente tra Toronto e Miami. Esatto, allora io direi Cleveland contro Miami, e dall'altra parte direi Golden State contro Oklahoma. Finale Golden State Cleveland e vincitrice del titolo Cleveland. Ecco Belinelli che ha fatto Obama. Sai che sono d'accordo con te, non sono ancora convinto che la tua vecchia San Antonio non riesca a piazzare l'ultima zampata contro KC. Però no, gli manco io, questo è il motivo. Questo è un problemone, a parte gli scherzi, no, sicuramente sono una squadra fortissima, però hanno perso gara 5 in casa, adesso giocano stanotte gara 6 a Oklahoma, quindi sicuramente, insomma, non si sa mai quello che può succedere, anche comunque San Antonio di gara 6 fuori casa ne ha vinte parecchie. Sicuramente non sono spaventati, sicuramente mi auguro che San Antonio possa vincere, anche, diciamo, per Ettore e tutti i miei amici, così. Quindi, però, insomma, io quest'anno vedo Cleveland perché LeBron, secondo me, sta giocando in una maniera da leader, in una maniera clamorosa, e secondo me se lo merita dopo 2, 3 o 4 finali NBA, quindi sì. Io dico Cleveland. Poi arriva Messina, comunque vada, esatto, la stagione NBA, arriva Messina a guidare la nazionale. Missione, esatto, Rio de Janeiro. Quanto è importante che sia Messina alla guida della nazionale? Beh, Messina è importantissimo, siamo tutti contentissimi, senza sicuramente comunque dimenticare Simone Pianigiani, che comunque per me, diciamo, per tutta la nazionale, diciamo, è stato importante, perché comunque ci ha fatto migliorare anno dopo anno. però insomma quest'anno siamo carichi, già dall'anno scorso secondo me si è vista, diciamo, una squadra molto unita sia dentro che fuori dal campo, quindi con un Ettore in più, diciamo un Ettore che è una persona fantastica, una persona, diciamo, che sa come vincere, è conosciuta da tutto l'ambiente cestistico, quindi sicuramente le cose sono positive. Poi dopo ovviamente sta a noi a allenarci bene, a cominciare da subito forte da fine maggio, comunque inizio giugno, quindi sta a noi andare sul campo e dimostrare veramente che abbiamo sicuramente più voglia magari di altre squadre di poter raggiungere questo Olimpiadi a Brasile. Beh, bisogna finire il lavoro cominciato l'anno scorso, che era cominciato benissimo, esatto. E poi è finito un po' meno bene nelle ultime gare europee. Ma si parla molto di commissari tecnici col doppio incarico. Tu sei favorevole o contrario? Cioè, secondo te è un problema che un CT di uno sport che vuoi tu abbia un doppio incarico? Ma guarda, ti dico sinceramente, non più di tanto. Nel senso, secondo me è una scelta dell'allenatore e sicuramente della federazione. Quindi noi giocatori, insomma, noi abbiamo un allenatore e il nostro, diciamo, obiettivo, quello che dobbiamo fare, andare in campo dando tutto il possibile per portare, diciamo, la nazionale italiana di basket a livelli in cui sicuramente deve essere. Non lo so, sono contento per Messina, sono contento, diciamo, di questa nuova scelta. So che lui è molto carico per questa nuova avventura, l'ho sentito anche pochi giorni fa, quindi non vediamo veramente l'ora di iniziare tutti insieme per poter sognare anche noi magari un'Olimpiade in Brasile, cercando di fare bene. Sì, c'è un ascoltatore che mi scrive un WhatsApp. Che tipo è Cousins? È matto, come si dice? È matto. no, nel senso, matto, è un giocatore talento enorme, sì. Veramente, ne ho visti pochi con un talento come lui. È un ragazzo giovane, però comunque ha già 25-26 anni, quindi deve trovare, secondo me, un'identità di essere un campione oppure un ragazzo con talento messo a parte, quindi vedremo cosa succede. Adesso abbiamo avuto la notizia comunque di un allenatore nuovo, un allenatore bravo per quanto lo possa conoscere io, e vediamo se è uno di quegli allenatori che può veramente mantenere o comunque avere il controllo della squadra di alcuni giocatori per poter far bene quest'anno. Sì, certo, quindi è certo. Tutto un punto interrogativo, però no, sono contento di questa scelta di questo nuovo allenatore. Un'ultima cosa, Marco, riguarda la tua Bologna. Sì. Virtus retrocessa per la prima volta nella sua storia. L'altro giorno abbiamo raccolto una testimonianza di un affranto, il giorno dopo la retrocessione, di un affranto Alberto Bucci. Fortitudo, che sogna di non giocare il derby perché sognerebbe di salire al piano di sopra, però Basket City, di cui tu sei stato un grande protagonista, non c'è più. Purtroppo no, e questo sicuramente è un grande dispiacere. Ho saputo ovviamente la notizia della Virtus, seguo ogni tanto sicuramente anche la Fortitudo, so che sta andando bene, e, però insomma per me il sogno, secondo me per qualsiasi persona, virtusina o fortitudina, è quella comunque di avere entrambi le squadre in Serie A a contendere magari lo scudetto, il derby, come si vive il derby. Insomma, sono tante mancanze che a Bologna ci sono. E quindi io veramente mi auguro che il prima possibile ci possa essere veramente un vero derby in Serie A, lottando magari anche per lo scudetto. Diciamo, questa secondo me è la cosa importante e la cosa di cui ha bisogno anche Bologna, insomma il vero Basket City di Bologna. Beh, ne ha bisogno il basket italiano, Marco, ne ha bisogno, esatto, di una Bologna, esatto, forte, ne ha bisogno il basket italiano, e così abbiamo accontentato anche Marco, che scrive un saluto ai virtussini che si avviano a esaltanti trasferte a Treviglio e Ferentino. Esatto. Grazie Marco, in bocca grazie al lupo. Grazie a voi. Un abbraccio forte. A presto, Marco Berinelli. Ciao. Grazie. Giovanni, credo sia da Napoli, così mi hanno scritto, è giusto? Sì. Buongiorno. Giovanni da Napoli, corretto? Sì. Benissimo. Salve. Volevo chiedervi riguardo, diciamo, della nazionale. Sento molto spesso parlare sempre di Perotti, non so, Zaza, come si chiama l'altro, Paoletti. Insomma, non si prenda molto in considerazione magari forse Insigne, che magari più ha fatto qualcosa quest'anno. Guardi, diciamo, torno a ripetere, secondo me Insigne è stato per buona parte della stagione il più forte giocatore italiano, più forte, il più determinante. Poi se a conti fatti dovesse scegliere giocatore italiano protagonista di questa stagione, sarei banale, direi Gigi Buffon, ma Insigne certamente è sul podio dei migliori giocatori italiani espressi in questa stagione. Al di là dei bisticci con Conte, sarei molto sorpreso se l'attuale commissario tecnico in uscita decidesse di non portarlo agli europei. Antonio, buongiorno. Buongiorno, comunque io non credo che Conte non porti Insigne. Sarebbe veramente un anche perché davanti non è che abbiamo Messi e Cristiano Ronaldo, esatto. Però io volevo tornare su un argomento, dottor Getta. Dica. Cioè, il problema lei prima ha detto con Pasqualin che non è possibile la federazione non ha la possibilità di intervenire perché e queste sono le regole della Bollman compagnia bella, no? Però io dicevo una cosa, ma scusate un attimo. Sono le regole del diritto europeo. Sì, sono le regole del diritto europeo. Quindi si può regolamentare il numero degli extracomunitari, ma non si può limitare la circolazione di liberi professionisti all'interno della comunità europea. Dica. Sì, però mi ascolti un attimo. Sì. Io penso che la federazione all'interno, diciamo, del suo organismo, in sede di delibera, potrebbe benissimo dire benissimo, voi squadre, società, potete intervenire sul mercato come e come volete, però in campo non possono andare più di 5 extracomunitari, più di 5 stranieri. Sugli extracomunitari, non so se ricorda ai tempi dell'Inter di Herrera. Sì. C'erano delle limitazioni, cioè se giocava per esempio Suarez e Jair, non poteva entrare Peiró. Ma c'erano delle limitazioni, così come poi sono state chiuse le frontiere agli stranieri per un certo periodo, poi riaperte nei primi anni 80, nell'81, 82 e poi bisogna adeguarsi al diritto. Ripeto, si può porre certamente, ed è stato fatto, un limite al tesseramento degli extracomunitari, si possono alzare o modificare i parametri del famoso pedigree dei giocatori come fanno in Inghilterra, è possibile prendere giocatori che siano di valore certificato dalle presenze in nazionale. In Italia questo meccanismo è molto molto sottile. Quanto al resto, in punta di diritto non si può impedire la circolazione di liberi professionisti comunitari all'interno della comunità europea. Andiamo al Giro d'Italia, ragazzi, poi torniamo con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Ciao Pier Augusto Stagi, buongiorno. Mi senti? Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ci sei, ti sento anche benissimo. Mi senti? Sì, che ti sento. Allora, ieri sentiamo Nibali prima insieme, poi commentiamo la tappa di ieri e poi diamo un'occhiata a quella di oggi. Nibali. Quando c'è il nervosismo in una tappa così che diventa difficile, è normale che si tenda a essere leggermente nervosi, ma è soltanto un fattore di corsa, niente di particolare. A parer mio ero lì ed ero insieme a Landa, però il buco non l'ho visto, quindi non lo so dove è stato preso, perché 4 secondi sono anche tanti. C'era il gruppo in fila, però a me, cioè, da quello che ho visto io vedendo così, non ho visto grandi buchi. C'era anche una caduta, quindi solitamente quando c'è una caduta viene anche neutralizzato il tempo. È chiaro che noi abbiamo cercato di continuare fino all'arrivo perché era giusto così, ad andare dritti. Poi se si rispetta il regolamento o si arriva tutti quanti insieme con il tempo, se no si rimane così. E questo era Nibali dopo la tappa di ieri, che ha incoronato Greipel, e insomma è un giro che comincia a farsi interessante, no? Stagi? Sì, assolutamente. Ieri sono già saltati i nervi, come abbiamo sentito. Sono bastati. Qualche problema di collegamento, rifacciamo. Intanto Antonello, provincia di Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io non sono abbastanza vecchio per potermi ricordare quelle limitazioni di cui parlava l'ascoltatore che mi ha preceduto, però ricordo per sentito dire da mio padre che i troppi stranieri nel nostro campionato italiano hanno decretato a un certo punto il fallimento della nostra nazionale. Ed è quello un po' che noi vediamo, insomma, i grossi risultati al di là del selezionatore sono quelli che sono, sì. Per cui non riusciamo a dare spazio ai nostri vivai, ai nostri giovani, siamo sempre alla ricerca dei fenomeni e purtroppo la Juve ha fatto il campionato da sola, arrivando ad avere 12 punti di distacco dalle prime e poi ne ha dato 12 alla seconda. Però la Juve, secondo me è una questione, Antonello, secondo me è una questione economica anche, cioè la Juventus appartiene ormai alla, a quella elite di grandi club europei che sono dominatori dei rispettivi campionati. Ora quest'anno abbiamo avuto in Inghilterra la parentesi Leicester, ma è un fenomeno irripetibile. In Germania, in Francia vincono sempre gli stessi, in Spagna la lotta è ristretta a 2-3 contendenti. E questo è il destino delle grandi, io uso sempre questa espressione, prima o poi ne trovo un'altra con maggiore fantasia, uso sempre l'espressione di corazzate nello stagno dei rispettivi campionati. Purtroppo, il sistema è questo, ci sono dei club che sono, ma per meriti amministrativi e sportivi, sono sovradimensionati rispetto a tutti gli altri. Per quanto riguarda la carenza di giocatori italiani, non penso sia un fattore riconducibile soltanto alla massiccia presenza di stranieri, perché quelli li vediamo anche in altri campionati, non ultimo quello inglese, leggete la formazione del Bayern Monaco piuttosto che della... del Manchester City, di una big inglese, vi rendete conto che per la maggior parte sono formate da giocatori che arrivano da altri paesi. Io torno a ripetere, al massimo livello professionistico la distinzione la faccio tra quelli bravi e quelli meno bravi, poi se un italiano è bravo lo spazio finisce per trovarlo, se è scarso io credo che debba e ha intenzione di fare la carriera di allenatore, non vedo niente di male sul fatto che si cerchi magari un altro campionato più o meno competitivo e vada a fare esperienze all'estero. Non dico a livello di Verratti, ma a livello di Pellè, di questi giocatori che comunque sono da anni girano con la valigia. Omar, da Torino, buongiorno. Buongiorno gente. Io velocemente volevo intervenire sul discorso di Pasqualin, che non sono assolutamente d'accordo, di dire che il campionato italiano è a livello del Portogallo o quasi sotto al quinto, ma cioè, lui non ha mai visto una partita dell'Evian contro il campionato francese è il campionato francese è francamente è francamente desolante. Ma credo Pasqualin facesse un discorso più dal punto di vista del potere economico, del potere di acquisto. Penso facesse un discorso di questo tipo. Poi il campionato italiano rimane uno dei più complicati, non a caso è vero, i grandi giocatori magari, come dice Marotta, vengono qui in parcheggio o in transito, però comunque rimane un campionato molto quotato sia per i giocatori che per gli allenatori, perché se è vero che il campionato italiano è un po' in ribasso, sono tremendamente in rialzo le quotazioni degli allenatori italiani, come ben sapete. Francesco da Verona, mentre stadio non ce la facciamo più a recuperarlo, si è perso tra le montagne della Calabria. Vabbè, sentiremo domani. Francesco, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno. Carlo, volevo intervenire in merito all'intervento di Pasqualin per i calciatori italiani, non nel campionato italiano. Io sono d'accordo con te, quelli bravi giocano, ma c'è da dire una cosa. Secondo me il prezzo è il mercato che fa il prezzo. Noi abbiamo italiani che costano troppo rispetto agli stranieri. Certo. Faccio un esempio pratico. Rugani o lo stesso Romagnoli hanno un rendimento molto più basso di un Koulibaly che è costato 6 milioni e 700 mila euro l'anno. E poi abbiamo giocatori all'estero spariti, come Criscito, che non trovano più collocazione. Quindi i procuratori si dessero pure una regolata, lui da amico, che hanno portato disastri a giocatori italiani, e si adeguassero al prezzo di mercato, perché il prodotto viene pagato deciso dal mercato, cioè il mercato che sa il prezzo. Quindi, certo, cioè, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. Cioè, a parità di, io fossi un presidente di una squadra di calcio, a parità di valore, a parità di valore del giocatore, vado a prendere quello che mi conviene di più. Questo è il discorso, no? E non sto a guardare se lo devo prendere in Francia o nei dintorni di Frosinone. Questo è questo il senso del discorso. Non possiamo più fare distinzioni tra comunitari e giocatori italiani nel 2016. Le leggi non lo consentono. Poi proviamo a inventarci qualche cosa di diverso, ma io credo che la penuria di talenti italiani in questo momento sia un fatto episodico. Le grandi generazioni di giocatori un po' vanno e vengono, e questo vale per tutti i paesi del mondo. Siamo alle prese con una generazione che grandissimi talenti non ne ha, soprattutto offensivi, e arriveranno tempi migliori, che peraltro abbiamo vissuto non moltissimi anni fa, e quando gli stranieri già massicciamente abitavano nel nostro campionato. Torneremo a parlarne, ragazzi, di tutto quello che volete, ma oggi non più. Abbiamo finito. Gianmarco Ferronato in regia, c'è Federico Binda in redazione, Alessandro Marco Tulli, il nostro autore. Ci sentiamo domani. Ciao. Guaglio, buon pomeriggio a tutti.